pigliare aria, per pigliare sole, per pigliare freddo come stamattina, no? A me piace una cosa attascabile, l'importante è che l'antenna sia giusta, non un filo casuale, se no. E vabbè, già lo sai. Sì, lo so, ma non è una televisione di radice di sorelle, dice tra le attitudini, non i bus comparà, perché non si sa mai. A me mi sembra un ricevitore e tu, così almeno non mi possono dire nulla. Eh beh, giusto. Eh beh, come l'857, anch'io l'ho usato per ricevere in HF in macchina, ma se, e poi me lo fanno mangiare se me lo trovano. E poi vabbè, disfatto anche di quello, pazienza. C'è una ricezione con l'antenna giusta tarazza, mamma di turchi. Come sai, ero bambinato le mie mi fanno il T2 da salvo, una bomba era. Marco aveva sentito che si è spaventato. Eia. E comunque a parità di antenna sai che l'857 nonostante tutto era più silenzioso, molto più silenzioso. E vabbè, l'avevo già detto, il K in macchina, da fermo motore spento, più rumoroso, sì. In zona di prova, già lo sai, San Francesco, lì sempre i test erano lì. Ma lo so. Sì, però appunto non fa, la ricezione trasmettente è sempre, vabbè, finché lo tiene a casa, però non si può portare fuori, non va bene, per cui, vabbè, per come lo uso io poi ce n'è davanzo una talina. È così un uso marginale ne faccio, e non credo che sia tutti i giorni, tutto il giorno ascoltare 20 metri, 40 metri, 80 metri, manco proprio per niente. E invece di ascoltare qua che non senti nessuno mai, ne ho ascoltato le HF io da qui, almeno. Qua non senti mai nessuno, a una certa ora solo, senti gente, tu. A noi se ne sono tutti andati. Vabbè, prima io mi ricordo si iniziava dalle 3:30 e si finiva alle 8:30, 9. Ma chi ce la fa a stare tutta la sera nel radio? È un incubo, c'è un incubo, troppo, ma poi a parlare mi manca sempre la voce, non ho più voglia, mi natta lì. A me piace più ascoltare che parlare, l'ho sempre detto. Come ascoltavo Radio Amatori, in voi non mi piace ascoltare 27, in HF, eccetera. Anzi, adesso puoi ascoltare solo Radio Amatori e CB, prima, molto di più. Mia meme. Ciao Gian. Ciao Gian. Buonasera. Ciao Gian. Cercavo giusto te. Allora, mi devi dire, Silvia ti sta dando problemi. No, negativo. Qualche settimana fa, giusto un paio d'ore, sapevo che c'erano stati problemi anche nel Campidano, zona di Cagliari, poi per il resto niente. Ok, no, c'è un amico che sta smadonnando di brutto perché questo Iliad è velocità di navigazione prossima allo zero. Dobbiamo capire se il telefono se è la linea. Comunque io Iliad l'ho attaccato dopo secoli, ho messo la scheda, velocità pessime, anche sotto il megabit per secondo in download. Va bene giusto per telefonare, mi dispiace, ma Iliad cioè proprio ho tenuto per telefonare, col telefonino a tasti, e boh. Seppure lo carico ogni tanto per non farlo scadere, per non far scadere il contratto, tutto lì. E quindi forse passerà a mobile questa persona, volevo che provasse la mia scheda sul suo cellulare, mezza giornata, una giornata, che ne so, e poi decide lui. Ok, vai Natali. Sì, capra, io vi saluto che devo fare cosa, devo ascoltarmi. Ci sentiamo alle prossime, salutoni a tutti, anche a quelli che ascoltano, che saranno molti. Buonasera. e in atterrissaggio qualcuno le sta chiamando, un segnale più basso. Chi è avanti? Il segnale meno di 7,5, modulazione non limpida, chi è? Eugenio, chi cacchio, non ti ho riconosciuto proprio per niente, il segnale forse era tipo il tuo, però la modulazione rispetto al, cos'è, del 3009, un po' un abisso c'è, Eugenio, non è pulitissima, che apparecchio è? Si può dire? Che strano, ha una modulazione che prima era squillante, mi forte squillante, ti sentivo anche dalla macchina quando chiamavi a voci, tipo, no? Dalla zona di lavoro, e si sentiva però la modulazione, così è, sembra dimezzata, Eugenio, non so il perché. Ah, nel camper, ho capito, vabbè, sì, l'Alan 48 XL Multi, mi pare. Natalino forse ha chiuso. Natalino, lo senti, Eugenio? Sono rientrato, Ma Massimiliano, tu sei? No, Antonio sono. Ah, tu, con quella modulazione mi sembra più Massimiliano, scusa. Eia, Natalino ha chiuso, io, no, le 8, vabbè, dovevo fare una cosa. Lo senti, Eugenio, da Porto Torres? Certo che lo sento. Buonasera, Eugenio, buonasera, senti Antonio da Sassari. Beh, capa, come arrivo a Porto Torres? Bene. Capa, capa. Ma grazie con un antennino piccolo tu. Ah, c'è la Mantova. Gli arrivi lo stesso, non è un segnale fortissimo, ma arrivi lo stesso, dai, già va bene. Sai cos'è, Eugenio, io non mi ricordo, è passato tanto tempo, io non sto entrando molto più, è da parecchio che non ti sento, non mi ricordo il segnale tuo originale, però credo che fosse analogo, tipo 7,5, una cosa del genere. Ricorda che comunque 5 ottavi era l'una, 5 ottavi è questa, Ciao Eugenio, ciao a tutti, ciao, chiudo, ciao. Ciao, buonasera Giulio. Ciao a tutti, Antonio, Marco, tutti insomma. No, non posso parlare. Ciao, ciao a tutti, riprende pure Eugenio. Sì, potrebbe essere anche così. Conta che la mia antenna comunque con gli anni piano piano sta invecchiando, siamo arrivati a 6,5 anni. Non dico che sia vecchia, però sono passati già 6,5 anni. Piano piano si ossiderà, cominceranno a perdere i radiali, piano piano, eccetera, eccetera. Ok. Ciao Giulio, sì, mi hai sentito. Un respiro corto, tanto io per motivi fisici, non di fisica, di fisico, devo staccare, mi sto un po' stancando, devo chiudere, dai, ci siamo un'oretta, forse più di un'oretta, dai. E devo staccare, ho necessità di staccare. Dai, sentiamo in migliori occasioni. Lo stesso per Eugenio, ok? Buona serata a tutti, alle prossime. quanto ti arrivo a Porto Torres, bene? Capa, aspetta. Hola. Troppo. Hola, hola, hola. Guarda, la radio è aumentato adesso. Capa, io non è che io la salgo tanto. La salgo tanto perché ho la voce sempre, ho la voce molto alta e non va bene. Vai forza e manda a me, per forza. Cosa hai fatto oggi? Davvero? Veramente? No, non ho capito bene. Ho capito, sei riuscito a parlare oggi ieri, mi hai detto. Capa, noi non ci riusciamo qua, lo sai. Lui, cioè praticamente lo sente lui a Sassari, noi nessuno di qua ci riesce a parlare lì. Abbiamo difficoltà perché il varco ce l'ha solo lui aperto. Capa, salutoni UG, ci sentiamo, dai. Scusa se non ti sentivo tanto bene, poco, cioè, già avevo capito, ma era un colpo di guerra in me voci, era. Ok, dai, ci sentiamo. E qua c'è Santiago 7, sì, c'è lo stesso segnale di che ti ha dato coso, ma... che ti ha dato... ma non mi viene un nome. Cosa hai detto? Giulio ha detto che non può parlare. E qua c'è il 7. La mia zona è Sassari Vecchio, zona bassa. Sì, capo, Antonio Bombo da questa parte. Ciao, ciao. Ah, del break. Sì, capo, salutone, ma cosa hai combinato? Santiago 9 sei qua. 8. C'è un grido via, di un punto. E di Santiago 9, cioè di Santiago 8. Come sei 9? Va bene, caspita. Sentiamo le prossimine. Buona, ti chiodo. Capa, ti ascoltiamo le prossimine oggi. Un po' massimo, cioè, per qua per 4 watt già sta arrivando, cavolo. Se non arrivassi così adesso questa estate, vediamo se riusciamo a tirare più su questa antenna, almeno ancora meglio, perché già io sono in una zona bassa, in più cioè, sto facendo anche sto uscendo anche troppo forte. Ciao Antu. Ciao Fra. Per adesso la voglio lasciare così, la voglio lasciare. Poi quando mi trovo un palo un po' migliore, aggiungo, alzo, mi metto il bullone sempre passante, ma cosa, perché non mi fido, non mi fido per niente. Mi metto una staffa in più e salgo di un po', salgo, sono sicuro che migliora. Salutato, avanti, chi era? Ciao Antonio Marino, ciao anche Claudio, ben sentito Claudio. 8:30 più 8 la decido perfetta. No, sto facendo cosa Antonio, sono per salutare, tutto qua. Ok, ci sentiamo, la rete di Antonio. Cappa, Mari, bene, ti arrivo Cappa. Benissimo Antonio, tu arrivi benissimo, hai capito? È come se qui a casa mia Antonio, vai tranquillo. Cappa, ti andrà bene, dai Mari. Ok, avanti Claudio, ci sentiamo, sono in quelli che ascolto e sto facendo un tabacchino qua, dai. Avanti Claudio. Capo, evidentemente c'è il varco aperto lì lo stesso. Io sono tutto aperto, Anto, qui io in campagna sono tutto libero, hai capito? Per quello libero, libero. Benissimo, Anto, riprendi, ci sentiamo, dai, che mi finisco questo lavoretto, poi me ne vado a mangiare. Ok, Anto, riprendi, saluto a tutti, saluto anche tutti gli ascoltoni e curati per me, dai, a mangiare tu. Capo, saluto Mari, dai, ci sentiamo. Andiamo avanti, chiaro. Esce anche troppo forte, esce da muros, però non è male, dai, come ti posso dire, va bene, cioè, ma guarda che non è da sopravvalutare, mi l'antenna che c'è tu. Si è rotta la mantovaccia, che cosa ha avuto fuori di tuo padre? È che durano un sacco di anni mi sul tetto, sono montate bene. dove non era da piazzare, lasciarla lì e basta. Già la montagna già non si spezza, già non ha problemi. No, non è, se il palo è buono non ha problemi, quindi no, non c'è nessun tipo di problema. Si trova, basta chiedere, già si trova, solo che bisogna chiedere. Si trovano qua a Sassari, non penso che ce l'abbia anche a De Sole, ce li abbia o qualche altro, qualche quelli lì, non lo so. Metteteci canto nel catramatto, se perde, se fa tegola già sciolto, perché non perde più. Sì, ma quella c'è anche la cosa, c'è la Superlem, c'è. Costa 160 euro, l'hai mai vista? Guarda che c'è un prodotto che si mette nelle tegole dura un sacco di anni, cioè, e vedrai che acqua non te ne entra più. L'abbiamo messo noi ed è efficace. Si chiama plastic, cioè non mi ricordo cosa. Devo cercare la fotografia e te lo mando. Voi li mettete quella cosa lì sul tetto, è garantita 10 anni. Se trovo una foto te lo mando, il tipo di prodotto che è, capito? È un prodotto che ce l'ha De Sole a Sassari, cioè in via Oriani, anche, costa mi pare 39 euro, costa il barattolo. Questa cosa qua si mette nelle tegole o nel tetto, dove vuoi, cavolo, ti isola tutto, quando si asciuga a capo di isola tutto, ma è efficace, vedi che acqua non ne vedi più tu. Purtroppo è così. Purtroppo è così. No, ma già si può riparare secondo cosa c'è. Oh, è rotto tutto, ha sfasciato tutto. Ti suga. Sicuramente come struttura non era un granché quell'antenna, per quello che è successo così. questo stanno vendendo questa che non è, solo che li hanno vendute tante, questa Venom della Sigma, dicono che è buona come antenna. K, chi vuole entrare? Avanti. Ciao Alpo. Ciao, buonasera. Vabbè, come va? Tutto a posto, sì. Sì, abbiato me. Tutto a posto. Sì. Sono un cucchio d'arrugginito, sono. Ok, saluto a tutti e due, ben ascoltati comunque. Sta per entrando, ero fuori, facendo un lavoro, ma almeno sono uscito a casa, se no cazzo divento scemo di vento. E quindi ho cenato, appena cenato, e sono a posto. Sono arrivato tutti e due bene, sono l'857D, quindi figurati tu, mi ascolto. Perfetti. Capa, ma pure tu Antone, mi sta arrivando forte qua, va bene. Beh, non so, va fare che ci bicchi di rotta, quindi sia il mio sia il tuo, quindi va bene, sono parecchi calibrati come ci deve, il tuo vabbè, quello che è, va benissimo lo stesso, ti va bene così, guarda, devi fare la scuola, non devi prima, dopodiché in seguito, una volta che molli quello, quando ce l'hai i soldi, ti prenderai un bel fatto in banda e finito di giostrare a comprarti 50 baracchini, 50 pareti, capito? Basta uno, basta avanti, due attacchi d'antenna e il discorso è chiuso. Guarda, non è che me la futti assai, no, di avere un quadro in banda. Non è che mi piace andare su quelle bande lì, la verità è. Sì, vabbè, ma se per dire, non è che devi andare in 144, per dire. Se vai in PMR non fai altro che ta-ta-ta, con i pulsantini e vai direttamente in. Hai capito? Ci sono due attacchi d'antenna, non devi stare a cambiare il piede, cosa del genere. Cioè, due agganci e sei a posto. Capo. Sì, ma non... La verità non mi interessano, la verità non... Ora vedo così, ora mi serve per parlare, mi serve... Cioè, per fare altre cose... No. C'ho il PMR qua, ma qualche volta l'accendo, ma no, non sempre. Vabbè, poi soluziono anch'io. Io c'ho PMR, quello portatile, ma a un certo punto devo fare sempre tacca e stacca, tacca e stacca, tacca e stacca. E quindi ho preferito vendermi il 140, il 180, quello che era, e ho fatto quel ragionamento, ce la faccio a stare cazzo con quattro baracchini, quattro antenne, ogni volta tacca e stacca, tacca e stacca, stava la botta. E quindi mi sono preso questo, tutto lì, adesso ti va bene quello, non ti sto dicendo di cambiare adesso, quello tu puoi tenere tranquillamente, in seguito, non sto parlando di adesso, quando cominci a essere più tranquillo, stabile, cosa del genere, eccetera, eccetera, tu dici beh, adesso mi prendo un altro apparato per dire, un quadro in banda, che poi, vabbè, lo paghi meno di me, dei cinesi, perché c'è, quindi figurati tu, quindi ti prendi un bel quadro in banda, non fai altro che lasciare due antenne e parli tranquillamente con tutti, non fai altro che usare il pulsantino, ta ta ta ta ta ta, e fai fretta. Ma non so, me ne posso, c'ho il portatilino. Vabbè, io la penso così più che altro. Anch'io pensavo come di tu prima. Quando c'avevo il 140, 180, cosa del genere, mi sono preso il coso, VHF, dopo il VHF mi sono pigliato lui e quindi devo stare con tre capi, tre antenne, cazzo, è un casino, devo stare sempre a comuttare, a un certo punto ho detto va a far culo. ti prendo questo e voglio finito di commutarmi le balle. Non faccio altro che commutarmi direttamente la pulsante del coso, dell'apparecchio e basta, tutto lì. Che rimarrà qua, questo apparecchio qua. Perché, vabbè, la mia cosa, io ho usato 4-5 anni, anzi più di 4-5 anni, cosa, il chemo, quindi figurati tu, ho usato prima il 140, ho usato il 80, prima il 80, poi ho usato il 140, ho usato il 140, quindi figurati tu. A un certo punto poi per la VHF e cose del genere mi sono preso il PMR, ho lanciato la tela di lì con quel commutatore eccetera eccetera e soprattutto ho detto basta, mi sta bene, detto, un apparato unico, nuovo, no, vabbè, di 15-20 anni, 20 anni fa, che ho fatto con la scelta, tutto lì. E mi trovo bene, la verità, non è che mi trovo male. Se l'ho avuto per dire il coso, c'è 80 vecchio, se non l'avevo venduto me l'avrei tenuto, questo è poco ma sicuro, perché era il migliore che c'era. Hai capito? Tutto lì. Purtroppo ho dovuto fare una scelta, non è che ci avevo molti soldi, il discorso è quello lì. La stessa cosa di come la pensi tu, sarebbe uguale, in seguito magari quando sarà le cose si sistemano per dire eccetera eccetera, allora piano piano si fa una bella stazione, ti metti due antenne, poi ti mettete solamente una eccetera eccetera e puoi parlare con chiunque, tutto lì. Una cosa rispondi a fare tanti soldi quando non è che ci sia un gran che no. Quando il banda, cosa accorsi? Vabbè no, non amo molto ascoltare certe frequenze. Io già ascolto col portatile, ma boh, no, non amo molto. Vabbè, ognuno c'ha ragione con la testa sua, non è che io posso ragionare, tu puoi ragionare con la testa mia, il discorso è quello lì. È stato meglio che gli altri. Cosa è quello lì? Ma se va bene così, io mi trovo bene, la verità adesso. Molto ma molto meglio, perché vabbè, ho iniziato dal 2009, cioè dal 2009, la verità. Ho iniziato da un cesso, ho fatto l'altro cesso, l'altro cesso, eccetera, eccetera, finché non sono arrivato al top del top, che era il primo 140, cioè non 140, 80. Dopo il 70 mi sono preso il 140, che me l'avevo venduto il 70, ma dopo tanti anni, mi ti parlo di quasi 12 anni, cosa del genere, mi sono aspettato di averlo venduto. Dopo che mi avevo comprato l'uomo lato 140, poi a un certo punto ho detto basta adesso, no, non mi interessa più, spendere 300-400 euro per un apparecchio di 20 anni, 25 anni, no, non li spendo più. Quindi allora ho preso e mi sono fatto quello, tutto lì. Però già vanno bene, cavolo, altro che vanno non bene, no, benissimo. Allora io sono il tipo che sì, vado anche PMR, ce l'ho quello piccolino ancora, però queste foglie mi piace fare radio, dove vado ad ascoltare non mi piace molto. Non è da me, capito? Già lo so, ma tutti dicono così, già lo sai. Piano piano piano piano, già lo sa che l'amico di Mulos, quindi, figlio di Capri 2, Claudio, figlio di tu.